Tazza buia Giose Cuervo, Skunk, Senka, morto che parla. È un requiem per un morto. Se non ti basta una vita, fanne un'altra, correndo su una pista di roba che ti spiazza. Sangue sulle labbra, il veleno che ti alza. Una tazza per compagna, requiem per chi sogna una vita opposta al peggio in questo mondo. Il resto me lo scordo, in fondo sono il primo che vivo come vivo, dal mattino al tramonto. Dal tramonto sarò il primo requiem per un morto. Adesso non vi sento, di certo non mi pento di quello in cui credo, lo faccio per me stesso. Il sangue alla testa, qualcuno lo detesta perché non lo sopporta. Tazza buia quando pesta, le rime sulla carne, il cash può aiutare, ma resto vivo solo grazie ai sorrisi di ogni frade. Dimmi ora madre come cazzo continuare, eppure ogni risveglio credo che sia per finire. L'energia che non c'è, come quando vedo te, ogni notte non andare, frade resta qua con me. Le persone intanto cercano di ucciderti, toccando ciò che in te andrà a finire col distruggerti. E se questo è ciò che cerco, che nessuno mi rimproveri, vecchi oppure giovani, siete già cadaveri di un mondo che t'aiuta a premere la lama sui polsi, perché in fondo è questo che gli garba. Rosso sangue chiama, vediamo chi risponde, spacca questo mondo per una cazzo di dose. Oltrepassando il fondo, io non torno indietro, il cielo può essere nero, non lo vedo dal terreno. Se i piedi sotto, ti perdi ogni ricordo, ti presto il mio biglietto, tanto io non ci torno. A vivere così, nella maglia è scritto sick, quando inizi non la smetti, come requiem for a dream. E life is a bitch, quindi fottila di più, bevo io, bevi tu, come carne resto giù. Nella musica è risorta la mia anima, carica tra odio e amore, sopravviva al taglio della lamina. Se non ti basta una vita, fanne un'altra, correndo su una pista di roba che ti spiazza. Sangue sulle labbra, il veleno che ti alza. Una tazza per compagna, requiem per chi sogna una vita opposta al peggio in questo mondo. Il resto me lo scordo, in fondo sono il primo che vivo come vivo, dal mattino al tramonto. Dal tramonto sarò il primo requiem per un morto. Sembra di perdere le chance di restare a galla e stare fermo se sono in tempo a salvarla. La vita di un lunatico, totale panico, sorrido tipo psicopatico e intanto scarico tensioni accumulate. Idee che maturate ti portano a pestare finché non c'è le ossa fratturate. E se è vero che ogni uomo ha una sua meta, la chiudiamo in fretta. Io sto nell'autarchia completa. Questa è vita confusa, quali idee chiare? Tu vieni mi obiettare che non mi so comportare. Indicami, dillo quanto è grave, quanto son volgare. Fanculo, io vivo la vita ma senza manuale. Ogni giorno suona sempre questa musica. Lo sai, l'avrei notato che la testa non è lucida. Comprimo paranoie, la macchia resta, non si toglie. Immaginami camminando su teschi e carogne. Farlo duro preme sempre, perché finché c'è questa roba in mente, predichi veleno a chi ti sente. Io porto il morso del serpente, capito gente, fino a che tutte le luci non saranno spente. Per questo schifo di cammino il tuo nemico punta a essere primo. Tienigli testa o sei fuori dal giro, aspetto che entri il violino nel beat su cui rimo. Per la vita grido fino all'ultimo respiro. Se non ti basta una vita, fanne un'altra, correndo su una pista di roba che ti spiazza. Sangue sulle labbra, il veleno che ti alza. Una tazza per compagna, requiem per chi sogna una vita opposta al peggio in questo mondo. Il resto me lo scordo, in fondo sono il primo che vivo come vivo, dal mattino al tramonto. Dal tramonto sarò il primo requiem per un morto.